get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte da Rosina e Deborah e benvenute alla 58esima trasmissione del nostro ciclo È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Sono tante le notizie che vi daremo nel corso di questi 45 minuti, ma non possiamo che iniziare con un nostro commento alla notizia clou degli ultimi 15 giorni, le elezioni regionali, un'altra fin troppo sbandierata vittoria delle destre italiane. È stato uno shock, ma nemmeno inaspettato, un fulmine ma non a cielo sereno. Dura da lunedì 17 aprile, il giorno dopo le elezioni regionali, quando le prime pagine dei principali quotidiani erano azzurre come il colore scelto dalle destre italiane. Nel Lazio prevale il fascista Picchiature Storace, dopo un vergognoso testa a testa con l'anonimo Badaloni, personaggio televisivo nella media, di nessun impatto, personaggio politico nullo e sempre di nessun impatto. Guardo e riguardo i risultati e penso che nemmeno la politica sciagurata dei catto ex comunisti può giustificare una Puglia schierata a destra. Più del 50% di disoccupazione reale, mediato nella pratica da sacche pluristratificate di lavoro nero, tra i peggiori esempi italiani di sfruttamento dei minori e delle donne, perpetrato da quegli stessi padroncini la cui ramificazione verrà amplificata dalla politica pseudo-liberista di Berlusconi. Ed ancora Abruzzo ed una sconfitta di strettissima misura in Molise, luoghi geografici con una popolazione di età media elevatissima, i giovani tutti a Roma o a Milano, in cerca di lavoro e di una vita fatta di discoteche e supermercati. Milano, la vera capitale economica d'Italia, che partorisce mostri trentenni, alienati da cellulari e coltellati ai colleghi, per avere la macchina più bella, la vacanza più di grido e quell'aria sempre abbronzata da giamaicano perso nella nebbia e nella pioggia. Com'è possibile? L'Italia dei partigiani e delle giornate di Napoli, degli operai e dei sindacati autonomi, piegata per 20 anni dal manganello fascista, scossa da 40 anni di torpore democristiano, non trova di meglio da fare che diventare un paese di destra? Ma che cosa abbiamo fatto e cosa ci hanno fatto? Ma davvero le coscienze sono così addormentate da non avere un rigurgito di passione politica e sociale, nemmeno di fronte ai vergognosi spot elettorali di Berlusconi? Ma davvero questo popolo è stato così instupidito dal sistema, da non ribellarsi, venendo trattato come un bambino ignorante da ladroni ripuliti che da dietro ampie scrivanie bucano gli onnipresenti schermi televisivi? E noi dove siamo? Cosa vogliamo veramente da questa vita, l'unica che abbiamo da vivere? Tutte e tutti in corsa per un falso benessere che continua ad essere povertà per tanti e vera ricchezza per pochi, gli stessi di sempre, accompagnati dai nuovi, i peggiori, quelli che spesso nemmeno vedi, ma che ci bombardano con messaggi sempre meno subliminali tramite tutti i veicoli di informazione. Li possiedono, glielo abbiamo permesso pezzo dopo pezzo ed hanno creato il peggiore dei monopoli possibile, quello della formazione delle coscienze. E ora che si fa? Cosa ci inventiamo? Siamo state anche noi donne a permettere tutto questo. Ci siamo allontanate dalla politica, forse perché stanche, o forse disgustate dalle continue mediazioni che hanno portato al governo questa falsa sinistra di ex comunisti privi di una nuova identità. O forse, ed è l'ipotesi peggiore ma probabilmente più vera, perché quando, raramente, abbiamo potuto influire sulle cose, abbiamo pensato ed agito in termini che ci sono estranei, ovvero in termini di potere. Ma il potere è ancora, per fortuna, appannaggio dei maschi, frutto di esperienza di secoli, e noi, se non riusciamo a stravolgerne la visione e a cambiarne prima le regole, non siamo in grado di gestirlo, ci scoppia tra le mani e siamo noi stesse le prime sue vittime. che vittoria di Pirro è stata quella del pseudosinistra al governo, ed infatti si sta disgregando nella farsa del posto d'Alema con Amato, come succede solo ai governi di transizione, privi di sostanza perché non inventano nulla, non lasciano il segno nella storia perché non hanno il coraggio degli stravolgimenti, quelli veri, tangibili e radicali. Noi lesbiche, la situazione diventerà sempre più difficile, minoranza tra le minoranze. Di volta in volta le scelte dovranno essere ancora più nette, le mediazioni ridotte al minimo indispensabile per sopravvivere, l'impegno ancora maggiore per recuperare e rendere efficace quel radicalismo che può essere la nostra unica ancora di salvezza. E non venitemi a chiedere perché sono separatista. Non ci arrendiamo e non possiamo arrenderci ad un sistema che tenterà di fagocitare tutte le note dissonanti, e noi, rendiamocene ben conto, rappresentiamo la più dissonante di tutte. Saremo sole in questa lotta, rimpallate tra una sinistra che ci ignora e dal più ci usa per una manciata di voti e per mantenere una patina di falsa apertura, ed una destra sempre più minacciosa e presente, che non vuole nemmeno annientarci perché non ci riconosce, ma vuole sicuramente renderci silenti. Ma noi siamo qui e da qui non ci muoviamo, lesbiche per scelta, per amore e per lotta, in quelli che, ai noi, non sono più nemmeno la parola d'ordine del World Pride romano. 2000 anni di resistenza. Per il nostro appuntamento con la musica lesbica indipendente, oggi ospitiamo di nuovo le due artiste lesbo-femministe Castleberry Dupré. Contro tutti i fascismi, il brano che ascolterete è Let There Be Peace. Le bambine e i bambini, si sa, cercano sempre di fare di testa propria e sono sempre in contrasto con genitori dispotici che tentano di inculcare loro le proprie idee vetuste ed obsolete sulla vita e sulla buona educazione. Tutte noi, quindi, per ovvia affinità di specie, siamo accomunate da questa lotta che si trascina dagli anni dell'infanzia fino a quelli dell'adolescenza e anche oltre. Ma dopo lunghi, esasperanti e continui contrasti per la nostra libertà di azione e di espressione, dobbiamo rassegnarci ad ammetterlo. Le nostre madri avevano ragione a dirci che indicare con il dito non si fa. E già, perché proprio un dito, guarda caso, è in questi giorni al centro di un'accesa discussione che infervora gli animi di eminenti scienziati e di illustri genetisti americani. Secondo una ricerca condotta dalla Università di Berkeley su un campione di 720 persone scelte a caso per le strade di San Francisco in California, lesbiche e gay si riconoscerebbero dalle mani e più precisamente dalla dimensione di indici ed anulari. Lo studio, pubblicato sull'autorevole rivista medica Nature, infatti, assicura che mentre nelle donne e negli uomini eterosessuali la lunghezza di indice ed anulare si equivale, per le lesbiche e i gay non è affatto così. L'indice è decisamente più corto e la ragione di questa differenza va cercata niente meno che nell'utero materno, dove i temerari futuri pargoli giacciono, ignari di quel che li attende, in compagnia di orridi ormoni maschili, in attesa di raggiungere questo assai discutibile mondo. Quindi, affermano gli autori della ricerca, la causa dell'omosessualità ha sicuramente radici genetiche. D'altro canto, da sempre, l'ambiente accademico ha cercato di scoprire il segreto delle cosiddette deviazioni sessuali e si è affannato in continue ricerche fornendo stravaganti spiegazioni suffragate da astruse teorie. Fu così che alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, i vari Havelock Ellis, Kraft Ebing e compagnia tracciarono le mappe delle aberrazioni sessuali, ricostruendo il percorso dei geni devianti e che lesbiche e gay divennero scientificamente il prodotto di combinazioni cromosomiche innaturali. Naturalmente in quel periodo era molto di moda considerare anche l'importanza delle influenze esterne, perciò se una donna fumava sigarette in pubblico, frequentava bar o aveva un tono di voce profondo, doveva sicuramente essere una lesbica. D'altro canto, al di là dell'analisi dei comportamenti cosiddetti sociali, la scienza veniva in aiuto fornendo una lunga lista di cause mediche e psicologiche per spiegare le aberrazioni sessuali. Tanto per citarne alcune, la masturbazione, considerata causa principale di lesbismo dal 1600 fino ai giorni nostri, le anomalie cerebrali, la paura della gravidanza, i traumi infantili, fino al fatto di provenire da una famiglia di scarsi mezzi. Negli anni venti andava invece per la maggiore l'utilitaristica concezione che a causa della guerra le donne intrecciassero relazioni saffiche per penuria di uomini o perché costrette a svolgere quei lavori che gli uomini stessi erano obbligati ad abbandonare per la difesa eroica della patria. Per non parlare poi naturalmente del contributo supremo introdotto dal malcostume del femminismo, madre di tutte le lesbiche del mondo. Oggi naturalmente, lo si evince chiaramente dal contesto, la scienza medica è ben più esatta. In un modello sociale come il nostro, sempre più votato alle manipolazioni di qualsivoglia tipo, clonazioni, feti, alimenti e quant'altro sia possibile, poteva forse mancare l'ennesima menata sulla natura genetica della diversità? Ovviamente no. Perciò la prossima volta che darete un'occhiata al vostro corredo, genetico naturalmente, vedete se riuscite a trovare quel monello del gene XQ28, perché secondo un'altra ricerca, in almeno il 75% di voi, esso è mutato ed è proprio per colpa sua che voi siete così. Accertata quindi la natura genetica del nostro comune difetto con il placet della scienza eterosessuale, vorremmo comunque informarvi dai microfoni di questa radio libera, giacché la stampa di regime non ne ha dato notizia, che la Libera Università Lesbica di Canicattì, Sicilia, Italia, ha pubblicato uno studio sulla natura genetica dell'eterosessualità, individuandone la causa nella migrazione progressiva dei neuroni verso le zone basse dell'organismo e più precisamente sotto la pianta dei piedi, ovvero quanto più possibile lontano dalla loro naturale sede, il cervello. Questa grave devianza comporta aberrazioni comportamentali nell'utilizzo strutturale delle capacità logico-analitiche, con una spiccata tendenza ad esprimere pareri privi di fondamento alcuno su materie di non competenza e il rifiuto netto di occuparsi degli elementi inerenti alla propria sfera di identità. A chi ne facesse richiesta, per un debito approfondimento, saremo in grado di fornire copia fotostatica integrale di questa importantissima ricerca che apre un orizzonte nuovo nel settore delle biodiversità. Detto questo, vorremmo semplicemente concludere ricordando, per quanto riguarda gli indici, che ne esistono di differenti specie e qualità: indice di gradimento, indice di potenza, indice di ascolto, indice di disoccupazione, molto di moda, dito nell'occhio, dito nella piaga, questi ultimi molto dolorosi. E per finire, il famoso indice dell'altrettanto famoso bambino della diga olandese, che proprio col suo dito salvò la città dall'inondazione. E chissà che le lesbiche con le proprie mani non salveranno il mondo. Attenti, il nostro dito è puntato su di voi. Sperando che certi tromboni tacciano per sempre, Janis Jan con When the Silence Falls. Gli appuntamenti. Dall'11 al 15 maggio, presso la Fiera del Libro di Torino, potete visitare lo stand 17 al padiglione 2 di Il Dito e la Luna, edizioni lesbiche e gay, che hanno pubblicato in passato importanti opere lesbiche internazionali. Dal 3 giugno al 29 luglio, ogni sabato alle 23, si balla al Classico Village in via Libetta 3, con le serate organizzate dal Gorgeous Gay in collaborazione con The Venus Rising, reduce dai successi invernali del Goa. Ad aperto a Pasqua e non chiuderà fino ad ottobre, il Centro Internazionale di Vacanza, Seminari e Stages, Terra di Lei. Nata nel 1984 come associazione culturale e luogo di vacanza che ospita donne da tutto il mondo, è una collina con ulivi e boschi di querce a Fabro Scalo, in Umbria, a 20 km da Orvieto, strutturata in campeggio e dotata di bungalow e casette di legno con bagno. Intenso il programma culturale di quest'anno, che nei mesi di luglio e agosto prevede corsi di yoga, di percussioni e di sciamanesimo, stages di teatro, concerti di musica popolare, proiezioni di film lesbici, feste, giochi, balli e canti intorno al fuoco. Per informazioni il telefono e fax è 0763 83 5241, email terradilei@libero.it. Come dicono le organizzatrici, Terra di Lei è per noi un dono di bellezza e forza, è un luogo di intrecci invisibili, visibili, di amore e di amicizia. Cerchiamo in questo spirito di lavorare in armonia con la natura e la terra. Dal 1 al 3 aprile si è tenuto a Venezia un incontro europeo delle associazioni di genitori e famiglie di omosessuali per la costituzione di un'associazione europea, l'Euroflag, che comprenda la GEDO italiana, la Contact francese, la FLAG inglese, la BEFA tedesca e la Telkel belga. Sono stati discussi 4 punti base per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la lotta contro ogni forma di discriminazione. Le prime azioni saranno la creazione di un sito web Euroflag e una campagna pubblicitaria europea nell'ambito del progetto Daphne. La rivista femminista trimestrale Marea indice il primo concorso letterario nazionale dedicato alle donne della Liguria dal titolo Le donne liguri, taciturne e coraggiose, patrocinato dalla Regione Liguria e dalla provincia di Genova. Il concorso prevede la partecipazione di racconti inediti che abbiano come tema il legame tra la cultura femminile e gli scenari naturali della Liguria ed è riservato alle donne divise in 2 sezioni, under e over 20. Non più di 10 cartelle in doppia copia dovranno pervenire alla giuria entro il 31 agosto 2000. Il premio, diviso tra le 2 prime classificate scelte tra 5 finaliste per ognuna delle 2 sezioni, sarà la pubblicazione dei racconti in una raccolta speciale edita da Erga Edizioni nella collana Marea. Per informazioni è consultabile il sito internet www.marea.it. La casa editrice Only Women Press, per chi conosce l'inglese, è un'ottima fonte per leggere testi e romanzi non ancora pubblicati in italiano che hanno come soggetto il lesbismo ed il femminismo. Una volta ricevuto il catalogo è possibile ordinare i volumi direttamente alla Only Women Press, Street Lawrence Terrace 40, Londra. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Chiamateci ogni mercoledì dalle ore 21 allo 06 68 64 201, telefono, fax e segreteria telefonica, oppure qui in radio allo 06 49 17 50. Il nostro indirizzo di posta elettronica è clrbp@hotmail.com. Reduce dal concerto ufficiale del 1 maggio con annesso il Papa e ormai riconfluita negli Eurythmics, la bravissima Annie Lennox con Why. In una recente trasmissione ci siamo occupate della produzione e della circolazione del sapere femminile ed abbiamo già detto quanto sia complesso reperire materiale scritto da donne, non solo quello di tipo politico, ma anche quello per così dire meno aulico, che riguarda la produzione letteraria e narrativa in genere. Oggi vogliamo parlare proprio di uno di questi testi minori, un libro di fantascienza pressoché introvabile, La difesa di Shora, di Joan Slonczewski, un'autrice americana di origine polacca che pubblicando quest'opera nel 1986 vinse il prestigioso premio Campbell per il migliore romanzo di fantascienza dell'anno. Pur avendo avuto un notevole successo di pubblico e di critica all'epoca della sua prima uscita, La difesa di Shora non ha avuto in seguito fortuna dal momento che l'opera non è più stata ristampata. Perciò chi oggi volesse leggere questo libro, che segue le orme, tanto per citarne una, della grande scrittrice di fantascienza Ursula Le Guin, autrice di avvincenti storie di ecologia aliena, non può fare altro che ricercarlo tramite canali privati o rivolgendosi agli archivi delle organizzazioni delle donne. Ne è disponibile una copia anche agli ALI, archivi lesbici italiani, presso il Centro Femminista Separatista. Sarà bene ricordare che la Slonczewski opera nel settore della biologia e della ricerca e proprio grazie a questa sua peculiare attività è riuscita a costruire per la sua opera un ecosistema particolarmente strutturato. Al suo interno si muove ed agisce in armonia con la natura un popolo di sole donne che si riproducono per partenogenesi, il popolo delle Scherer, le spartienti, cioè coloro che fanno le parti. La difesa di Shora, che si intitolava in origine Una porta sull'oceano, non è un libro a tematica specificamente lesbica, ma resta comunque un testo molto amato dalle lettrici lesbiche grazie al modello sociale, in qualche modo ideale, che l'autrice è riuscita a costruire. Shora è un immenso pianeta ricoperto dalle acque di un oceano infinito, popolato da strane creature marine. Le spartienti vi abitano occupando un sistema di zattere viventi che si spostano sulla superficie del pianeta trascinate dagli stellavermi, giganteschi e pericolosi animali ancorati sul fondo delle zattere stesse. Le spartienti provvedono a nutrirli e a curarli, anche a costo della loro stessa vita, e ne utilizzano il canto per comunicare con le occupanti delle zattere lontane. All'equilibrio biologico e quindi a quello sociale e culturale del pianeta concorrono tutte le creature che lo abitano, siano esse umane o animali. Le spartienti chiamano sorelle anche le creature minori, proprio per indicare la comunione e l'analogia con esse nel compito di difesa dell'esistenza stessa di Shora. È questa l'applicazione pratica della filosofia delle Scherer. Esse spartiscono la cura del pianeta ed il pianeta spartisce la cura delle spartienti stesse. La cultura di questo popolo si basa infatti sull'armonia e il rispetto, non solo nei rapporti sociali, ma anche per quanto riguarda l'ambiente all'interno del quale esso vive, nella consapevolezza di appartenere ad un solo unicum biologico in cui ogni elemento è parte del tutto. Così ogni creatura vivente è figlia e al tempo stesso madre e protettrice di Shora. L'organizzazione sociale delle spartienti prevede l'esercizio della democrazia attraverso i concili di zattera, spazi autogestiti all'interno dei quali prendono parola le autobattezzate, cioè le spartienti adulte che hanno preso un autonome e che quindi sono in grado di assumere le caratteristiche essenziali per divenire protettrici del proprio mondo. Inoltre, attraverso diversi sistemi biologici di comunicazione, le spartienti sono in grado di governare il pianeta anche a distanza, nell'accordo totale dei vari sistemi di zattere. Le spartienti, prive di qualunque tipo di tecnologia, posseggono una importante tecnica biologica, il plasma vita, che consente loro di risanare in maniera naturale le ferite e i mali del corpo. Proprio a causa del plasma vita, la civiltà di Shora sarà messa in grave pericolo, fino a correre il rischio dell'estinzione. Infatti, il supremo patriarca di Thor, capo della Confederazione Intergalattica, nell'intento di carpire il segreto del plasma vita, ordinerà a Valedon, la luna gemella di Shora, di invadere con le proprie truppe il pianeta Oceano. La singolare cultura di Shora, infatti, rappresentando una differente concezione di esistere, viene considerata una grave minaccia per quel che resta della Confederazione dell'Impero Patriarcale, in gran parte distrutto dall'utilizzo errato della propria stessa tecnologia. Proprio qui l'autrice comincia a profilare una grande contraddizione tra i due mondi, quello acquatico di Shora e quello di Valedon, dove tutto si misura con la pietra, dove nessuna attività può essere esercitata se non si possiede una pietra emblematica, dove i diritti, non importa quali, sono riconosciuti solo a chi esercita un qualche tipo di potere economico. Ed emerge anche la contrapposizione fra i valori di Valedon, la distruzione, l'arroganza, il sopruso e la sopraffazione, tipici della cultura maschile per eccellenza, e quelli femminili di Shora, come l'armonia, la comunione, la simbiosi con la natura. Nonostante le differenze profonde fra i due popoli, le spartienti, fedeli alla loro filosofia, tenteranno dapprima di spartire la guarigione con le sorelle malate di pietra, come esse chiamano gli invasori. Ma quando la presenza delle truppe dà il via ad una vera e propria opera di distruzione della loro integrità fisica, esse prendono in considerazione la possibilità di dover rispondere agli acceleratori della morte, uccidendoli a loro volta. Ma nonostante tutto, esse continuano a considerare gli invasori come creature umane. E la soluzione violenta del caso comporterebbe per le spartienti la contrazione della loro stessa malattia, e mettendola in pratica esse perderebbero la propria umanità. Per questo decideranno di opporre ai soldati non la violenza, ma una resistenza passiva, pacifica ma dura e tenace, grazie alla quale, senza compromessi, senza rinunciare alla propria identità, riusciranno comunque a liberarsi e a richiudere finalmente la porta sull'oceano. Non so se quello che vi ha letto Rosina vi ricorda qualcosa, ma quello che andiamo a sentire adesso non è fantascienza, è proprio Billie Holiday con Blue Moon. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Lesbiche si nasce o si diventa? Nell'uno o nell'altro, lesbiche si è. E nessuno, nessuna, ha il diritto di chiederti o importi di cambiare. Forse ti diranno che è tipico dell'adolescenza avere gusti sessuali indistinti e che poi, crescendo, si diventa naturalmente eterosessuali. Ma questa affermazione è falsa e ingiusta. Tu hai il diritto di viverti come lesbica, ora e fino a che lo vorrai, e nessuno, nessuna, può chiederti di reprimere e distorcere i tuoi desideri e il tuo modo di amare in nome di una normalità che altri e altre hanno deciso per te. Il fatto che le eterosessuali siano la maggioranza non le autorizza a dettare regole universali né a credersi gli unici e le uniche nel giusto. Quella che Deborah ha appena letto è una delle chicche della pubblicazione Non sono l'unica lesbica al mondo, redatta dall'associazione fiorentina Azione Gay e Lesbica, nell'ambito della iniziativa Daphne della Comunità Europea contro le discriminazioni nei confronti degli adolescenti omosessuali. Per riceverne copia potete contattare l'associazione allo 055 67 12 98 o tramite l'email gaylesbica.fi@agora.stm.it. Ma ora, e ci voleva, un'altra chicca della stessa pubblicazione. La Chiesa. Forse sei cattolica, forse lo è la tua famiglia, o comunque vivi in un paese cattolico. La Chiesa cattolica spesso afferma che l'omosessualità è contro natura e che vivere la sessualità lesbica è peccato. Ricorda che quella stessa Chiesa ha impiegato 300 anni ad ammettere che la Terra gira intorno al Sole. Fourteenth Street, the garbage swirls like a cyclone. 3 o'clock in the afternoon, and I am going home. F train is full of high school students. So much shouting, so much laughter. Last night's underwear in my back pocket, sure sign of the morning after. Take me home. Take me home and leave me there. A lullaby, feel free to listen, yeah. Feel free to stare. I live in New York, New York, city that never shuts up. In the daylight everything is so gory, you can hear snatches of strangers, sorry stories. And I moved there from Buffalo, but that's nothing. The trico plant moved to Mexico. Left my uncle standing out in the cold. Said, here's your last paycheck, have fun growing old. Take me home. Take me home and leave me there. I don't wanna cry, don't know why. Think I'm gonna sing myself a lullaby. Feel free to listen, yeah. Feel free to stay. Rock-a-bye, baby. In the tree top. When the wind blows, the cradle will rock out. When the bow breaks, the cradle will fall off. And down will come baby, cradling on. Youth is beauty, money is beauty, how beauty is beauty. Sometimes it's the luck of the draw, it's the natural law, it's a joke. It's a crime. I was bored and you were bored. It was a meeting of the minds. And now it's 3 in the afternoon and I can't leave too soon. Saying thank you, I had a nice time. Take me home. Take me home and leave me there. I don't wanna cry, I don't know why. You know, I'm gonna sing myself a lullaby. Feel free, listen, feel free, feel free. Rock-a-bye, baby. In the streets I love, love. When the wind blows, the cradle will rock out. When the bow breaks, the cradle will fall off. And down will come baby, cradling our love. Maybe I'll live my whole life just getting by. Maybe I'll be discovered,